dicevo che il corteo è entrato a Piazza del Verano, davanti insomma ai capolinea dell'autobus. È un corteo abbastanza numeroso, poi come di consueto si aumenterà il numero. Comunque già da adesso siamo credo oltre 2000 presenze. Le file sono molto compatte, la via del Castro Laurenziano è tutta piena interamente dall'inizio alla fine. Intanto l'altro aspetto positivo da notare è che la partecipazione è veramente ad ampio spettro, cioè ci stanno chiaramente i centri sociali, i comitati di lotta per la casa, ma dietro gli striscioni e dietro le bandiere ci sono veramente tutte le rappresentanze della cittadinanza romana, ovvero inclusi anche gli migranti. Infatti è una partecipazione in percentuale veramente grossa, ci sono tanti volti e tanti colori anche della pelle diversi, e la rappresentanza diciamo delle varie forze che hanno promosso questa manifestazione, che si apre con lo striscione che dice che non c'è sicurezza senza diritti, che è un po' la parola d'ordine che ricorre. Sentite qui dal camion di ESC, che mi pare che è quello che apre, sto adesso risalendo alla testa del corteo, che apre il corteo con lo striscione per Emiliano, lo striscione di Emiliano Libero è un po' dietro. Comunque la rivendicazione appunto non solo degli spazi occupati, degli spazi liberati, ma anche di difendere e conquistare nuovi diritti, perché quelli che ci stanno vengono attaccati e tolti, ma ce ne stanno ancora tanti effettivamente da conquistare. Poi c'è anche una buona rappresentanza del sindacalismo di base, ecco, sì, leggo davanti al camion Emiliano Libero Subito, e poi il primo striscione, in effetti non c'è sicurezza senza diritti, uno striscione rosso e poi una stella Emiliano Libero. Senti, appunto, sì, io volevo dirti questo anche nelle telefonate precedenti, insomma già abbiamo colto questo senso di soddisfazione, insomma, con chi abbiamo parlato prima, e anche nelle tue parole mi pare di cogliere questo elemento, insomma, di per ora soddisfazione per come la gente anche lo sente, oltre numericamente, ma con la partecipazione convinta, voglio dire, alla manifestazione stessa. Quindi anche tu confermi questo clima, quest'area un po' che si respira? Sì, posso confermarlo, e ripeto, la cosa che a me fa più piacere visivamente, visto che ne seguo tanti di cortei, è questa presenza di migranti che in un'iniziativa non specificamente a difesa dei migranti sono invece presenti in massa. Quindi, sì, spesso come occupanti delle case stesse, insomma. Sì, quindi effettivamente questa unione dal basso si è realizzata, certo non è ancora maggioritaria nella città, ma è un segnale, mi sembra, molto positivo e incoraggiante. E quindi adesso magari io continuerò a risalire indietro al corteo, poi a fare le consuete interviste anche sulle specifiche situazioni, se volete, nelle prossime corrispondenze.